Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio, ancora buone feste da Maria Luisa Pezzali. Questa settimana anche noi di Essere e Avere ci siamo presi qualche giorno di riposo, abbiamo deciso allora di confezionare un meglio di con una selezione dei temi affrontati in questi mesi. Vi riproponiamo l'approfondimento dedicato a pubblicità progresso, ne abbiamo ripercorso la storia e l'impatto sulla società e sulla comunicazione commerciale, torniamo poi a parlare delle nuove frontiere delle vending machine, quelle che tutti noi chiamiamo macchinette, un settore in forte espansione, per nulla scalfito dalla crisi e ad alto tasso di creatività. Focus sui trend invece tutto dedicato alla memoria e ai consumi che le girano intorno. La borsa della spesa. Questo scambio potrebbe essere uno di quei film che ti fanno pensare. Vuoi sapere la storia che ho raccontato? Le parole degli altri possono arricchirci. Ascoltiamole. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Ehi, tu non sei grande, tu sei solo. Rispetta chi non la pensa come te. In casa vostra non vi comportereste mai così, vero? E allora perché quando andate nei prati o nei boschi vi comportate così? Ma i boschi e i prati sono casa vostra, lo capite o no? Il verde è tuo, difendilo. Le avrete sicuramente riconosciute, sono solo alcune delle più famose campagne di pubblicità progresso. Immagini e slogan che da quasi 40 anni accompagnano i cittadini italiani, vero e proprio specchio dei cambiamenti della società attraverso le sue paure, le sue aspirazioni, i suoi ideali. Nata nel 1971 come associazione no profit, poi diventata fondazione, pubblicità progresso è diventata sinonimo di campagna sociale. Il suo scopo, leggiamo dalla presentazione istituzionale, è di contribuire alla soluzione di problemi morali, civili ed educativi della comunità, ponendo la comunicazione al servizio della collettività. Molte campagne hanno fatto epoca, ci dice il presidente Alberto Contri. La prima addirittura fu una campagna per una raccolta di sangue, perché si era creato un mercato nero di sangue negli ospedali ed erano negli anni 70, quindi si veniva fuori da Carosello con quella pubblicità tutta edulcorata, comparve un medico chirurgo con un'aria molto truce che colpevolizzava il pubblico dicendo tutto questo avviene perché voi, e subito in un anno ci fu un tale successo che tra l'altro le associazioni che si erano riunite per cominciare a fare questa prima campagna si riunirono poi in pubblicità progresso e poi via via sono state fatte campagne famose come il verde tuo difendilo, che fumo avvelena anche te di smettere, fino ad arrivare anche a campagne più recenti dove invece abbiamo usato il linguaggio dell'ironia, abbiamo usato il linguaggio della musica. All'estero per le campagne di comunicazione sociale lo hanno fatto Greenpeace, WWF, UNICEF, si stanno sperimentando linguaggi di forte impatto, legati anche a tecniche di vero e proprio guerriglia marketing. Ancora Contri. Attenzione che il linguaggio non sia fine a se stesso, ma serva veramente alla causa. Per quello, per esempio, noi, anche grazie a studi di psicologi che ci assistono, siamo sempre stati molto contrari alle campagne brutali e shock, perché producono semplicemente un effetto rimozione. Uno vede il cadavere spiaccicato sull'asfalto in una campagna di prevenzione di incidenti stradali, la prima reazione che gli viene in mente dice: ma tanto a me quello non mi capita. Mentre ho visto recentemente anche per campagne su tematiche molto difficili, proprio come gli incidenti stradali o addirittura l'AIDS, delle campagne che sfruttano l'ironia, perché in quel momento uno ti fa sollevare la guardia e i concetti ti restano molto più facilmente in testa. In Italia c'è una realtà molto interessante da raccontare al proposito, ha vinto il premio Arete 2009 per la comunicazione responsabile, si chiama Pubblicità Regresso, campagna di comunicazione sociale col trucco, si autodefinisce, è promossa da AS, il mensile delle ACLI, in collaborazione con i copywriter dell'agenzia scrittura.org. La finalità è sempre quella di una campagna sociale, ma viene usata la leva della parodia, dell'ironia, ironia, del cinismo anche. Si tratta in pratica di finti annunci pubblicitari che fanno il verso a pubblicità molto note. Il direttore di AS Lanfranco Norcini Pala. Abbiamo provato a utilizzare meccanismi, linguaggi, le forme e anche gli stereotipi della pubblicità per presentare al lettore dei temi sociali. Ed ecco che così nasce per esempio Homeless to Please, che è il giusto equilibrio tra fame e stenti, ecco che nasce Solax, la scarpa di chi non arriva a fine mese, nasce Nerissima, che è l'acqua dalle terre del deserto, il richiamo all'impurità, o ancora Spintarella, il navigatore satellitare che guida nella ricerca del lavoro. In quest'ultimo caso in cui abbiamo preso in giro i maghi con il famoso mago uno qualunque, bisogna mettere in mano a lui la propria vita, chiudere gli occhi e lasciargli anche il portafoglio, abbiamo ricevuto parecchie mail di protesta dei lettori perché sul giornale delle Acri la pubblicità di un mago non sta bene. Oggi, come annunciato, riempiamo la nostra shopping bag con i prodotti che possiamo acquistare ai distributori automatici, prodotti impensabili solo fino a poco tempo fa, dai libri ai gioielli, tanto che c'è chi parla di una vera e propria self-service mania. Non più solo caffè e merendine, le macchinette conquistano sempre più prodotti e nuovi spazi. Grazie alla filiera corta hanno reso di nuovo familiare il latte crudo, ormai a disposizione in molti distributori sparsi per le città. Alcune catene di supermercati le hanno sperimentate sotto forma di veri e propri empori automatici per acquistare self-service 24 ore su 24, dalla carta igienica ai surgelati. Le macchinette più evolute sfornano primi piatti o pizze fumanti in 90 secondi. Feltrinelli le usa per vendere libri alle fermate della metropolitana, Gallo le note calze e cravatte in aeroporto, l'automatica i gratta e vinci, Arexons i lubrificanti per moto. Tra gli esperimenti più curiosi oltre confine, macchinette per la vendita di gioielli in oro all'aeroporto di Francoforte e per le sneakers del marchio giapponese Onitsuka a Carnaby Street, Londra. Sempre in Inghilterra, la felice intuizione di un'altra azienda di scarpe che ha disseminato le discoteche d'oltremanica di vending machine contenenti ballerine, utili alle forzate dei tacchi a fine serata. E a Tokyo, Uniqlo ha inaugurato uno spazio completamente automatizzato per la vendita di t-shirt, una formula che sembra fatta apposta per stupire, vedi il distributore di Smart in Giappone, non a caso utilizzata anche per alcune campagne sociali, come la macchinetta firmata UNICEF, che vende bottigliette di acqua sporca per sensibilizzare sulla mancanza di acqua potabile nei paesi in via di sviluppo. Un business in crescita costante, più 10% nel 2008, stessa crescita prevista per fine 2009, come ci conferma Vincenzo Scrigna, presidente di Confida, l'associazione italiana della distribuzione automatica. Il trend continua a crescere, tenendo presente che noi stiamo perdendo anche posti di lavoro, perché il forte nostro core business è nelle aziende. La crisi dei posti di lavoro, i dati ci parlano di 1 milione di posti di lavoro persi in Italia, noi lo stiamo sentendo, però questa diminuzione di consumazioni la stiamo recuperando perché stiamo scoprendo nuovi utenti, sempre più persone si avvicinano al distributore automatico proprio perché in questo momento di crisi hanno scoperto che a un prezzo interessante hanno un prodotto di alto valore. E anche in Italia l'offerta dei prodotti si sta differenziando. Siamo ancora tutti in una via sperimentale. Diciamo che l'associazione che rappresento riguarda di più la distribuzione di prodotti alimentari. Si parla del famoso caffè espresso o di lattine o di snack. Questi canali alternativi di prodotti come le scarpe, possono essere i libri, le calze. L'altro giorno in aeroporto a Milano ho visto un distributore di lenti a contatto. Cioè, sono nuove forme di vendita sulle quali vanno fatte grandi sperimentazioni, perché bisogna trovare la location, il prodotto giusto che serve in quel momento. Sono tutti ancora fasi di test, ecco. Però ci stiamo guardando tutti, vede le scarpe e i prodotti che si possono vendere tramite distributori automatici sono tanti. Uno invece dei canali molto più interessanti, prodotti alternativi alle famose bevande calde, è i prodotti antinfortunistici. Nelle aziende si stanno installando sempre più apparecchi che distribuiscono al personale le famose tappi per le orecchie, le cuffiette. Noi stiamo facendo qualche esperimento, abbiamo qualche scuola, sembra una banalità, la biro, il quaderno. Essere e avere. Quanti prodotti, servizi, applicazioni oggi ci aiutano a ricordare, a registrare, a non perdere nemmeno un istante della nostra vita? Ci avviamo davvero verso la generazione che gli esperti chiamano Total Recall, capace cioè di ricordare tutto e in qualsiasi momento, la generazione dei ricordi perfetti? È il tema del focus sui trend di questa settimana, in compagnia come sempre di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. L'uso e la diffusione di dispositivi high-tech sempre più sofisticati, unita alla spettacolarizzazione delle nostre vite attraverso i social network, sta creando una memoria digitale infinita, memoria che si incrocia e si scontra con l'uso personale della memoria intesa in senso tradizionale, la memoria storica sulla quale gli esperti lanciano periodicamente l'allarme. Noi oggi accumuliamo dati, ma non li usiamo, non li valorizziamo. Una riflessione che passa attraverso molte categorie di consumo legate anche alla vita di tutti i giorni. Patrizia. Se ci pensiamo, una delle prime domande che ormai facciamo prima di acquistare qualsiasi cosa, una macchina fotografica, un lettore MP3, un computer, una videocamera, una penna USB, un lettore video, un registratore, è quanta memoria ha, quanto tiene. Quindi questo tema della memoria digitale è certo al centro delle ricerche, per esempio nel campo delle nanotecnologie, questo sarebbe un ambito molto interessante da esplorare, ma è soprattutto al centro del nostro interesse quotidiano e oggi tra l'altro è una delle specifiche tecniche distintive appunto di molti prodotti di elettronica di consumo. Dunque, perché è così cruciale possedere o utilizzare dispositivi di archiviazione la cui capienza, tra l'altro, pensiamoci nel caso dei prodotti fisici, è anche inversamente proporzionale alla loro grandezza fisica. Ma vogliamo trattenere, ritenere, fissare il passato, il presente e quindi archiviare anche il nostro futuro. Quindi siamo ossessionati dalla memoria dei nostri dati, delle nostre vite, che è sparpagliata e diffusa in tutti questi apparecchi che abbiamo elencato e di cui ci circondiamo. È la cosiddetta cloud, come si dice in gergo, la nuvola, una nuvola di byte che ci segue, questo serbatoio immenso e invisibile di cose che ci riguardano, disponibile sempre e ovunque per consultare le conversazioni che abbiamo fatto, i film che abbiamo visto, i libri letti, le canzoni ascoltate, le foto scattate, eccetera. Il successo di archivi condivisi come YouTube per i video o di archivi più personali come Flickr per le fotografie anche nella versione a pagamento è molto indicativo di questo desiderio che è diventato proprio un bisogno di conservare con forme e linguaggi diversi ciò che parla di noi. Pensiamo a dispositivi come il Kindle o Kindle, che sono al centro di un dibattito controverso in termini editoriali, poiché viene paragonato a un libro, no? L'ebook, un libro elettronico. In realtà sta avendo presa, seppur lentamente, non tanto come supporto appunto per la lettura elettronica di libri, ma come memoria di servizio, come biblioteca personale, pensate, può tenere fino a 3.500 libri da scegliere tra 300.000 titoli scaricabili wireless in meno di un minuto e quindi verrà usato per archiviare tutti i libri che abbiamo letto, per scaricare libri da leggere in vacanza, gli studenti lo useranno per il corso, per la tesi, eccetera. Infine, memoria, digitale e non, vorrei sottolineare che significa appunto recupero del passato e per capire l'ossessione innescata dalla potenzialità tecnologica che abbiamo a disposizione, vorrei dire che la memoria rivista e rielaborata come patrimonio personale, come stock di saperi, come immaginario sociale, oggi è un valore centrale, un valore culturalmente desiderabile, che appunto non a caso viene continuamente reinventato anche in chiave nostalgica. Ed è ormai un vero e proprio cult il cliccatissimo memoro.org, il sito ideato da 4 trentenni di Torino che hanno percorso l'Italia da nord a sud alla ricerca di testimonianze sulla nostra storia, le nostre tradizioni. Esperienze di vita vissuta raccontate da gente nata prima del 1940, questo il requisito, filmate e depositate online, esperienze che contribuiscono a formare una vera e propria banca della memoria. obiettivo dichiarato, salvare la memoria di un paese smemorato, risultato più di 1000 clip visionabili, 4000 utenti registrati che possono mandare il loro contributo, 1 milione di visitatori e siti gemelli in altri 8 paesi. Eccone un assaggio. Una signora che veniva fuori e faceva la bomba, la bomba, tutti, ma come? La bomba, la bomba, la bomba. Andiamo dentro, io e c'era altra gente, io dietro, la ragazzina, oh, in cucina c'era una vacca di bomba d'aereo, così, ma lunga 2-3 metri, e si vedeva il cielo, il buco. Siamo imbarcati a Napoli con il battello Valentino, e sono andati là fino a Massaua. Io sono nato in una casa di ringhiera, ogni ballatoio abitano 2-3 famiglie, al fondo c'era il cesso in comune. C'è solo, mentre magari stavi mangiando, passava la signora Cucco col giornale sotto il braccio, perché capivi che buongiorno signora Cucco, buon appetito, ecco. Nenenenna, figli miei, prececchienci, che tende l'allarma, ce ve faccio, tra il braccio di me, se faccio sciocolo di voi, che voce. Vogare. La memoria online va perduta, sostengono però gli storici, lo accennavamo in apertura, gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli della British Library, sostenendo che il materiale sul web rischia di fare la fine delle foto personali che accumuliamo disordinatamente sul computer, ma che non mostriamo mai a nessuno, diversamente da come si faceva con gli album di fotografie. Patrizia, è così? La memoria digitale è per assurdo una memoria meno condivisa, Memoro dunque è un'eccezione in questo caso? Ma la memoria digitale intanto tecnicamente può diventare eterna, cioè le nuove nanotecnologie senza silicio avranno durata illimitata, quindi potremmo avere, come si diceva in apertura, ricordi perfetti, cioè quei ricordi non opacizzati, non sfocati, non alterati, come succede invece con la memoria umana biologica, che appunto non funziona affatto come un magazzino in cui prima si stivano informazioni che poi si recuperano tali e quali su richiesta, no? Perché ogni volta che ricordiamo, ci dicono i biologi, tecnicamente riapprendiamo, quindi trasformiamo, eccetera. Quindi avendo questa possibilità di inscatolare dati che rimarranno esattamente come sono per l'eternità, ne immagazziniamo in quantità per non dimenticare, per non perdere nulla. Quindi senz'altro questo accumulo, diciamo, scriteriato, nel senso di senza criterio, senza sintesi, senza filtri, crea questo effetto di indistinzione, di abbassamento generale del valore dell'archivio. Quindi quando non seleziono, non creo gerarchie, è tutto allo stesso livello di importanza, e tra l'altro più cose archivio più penso di possederne, c'è questo effetto paradossale di saturazione in cui poi non consulto più l'archivio perché mi basta averlo. A fronte di questo tema credo che gli storici si preoccupino appunto, oltre che di questo effetto controintuitivo, no? Che è l'uso della memoria dislocata fuori da noi, che poi non viene più interrogata, si preoccupano della scomparsa di informazioni non salvate su internet. Questo è un tema, quindi non recuperabili, per esempio tutti i siti pop-up che aprono e chiudono a tempo, legati a eventi specifici, si è letto sulla cronaca, dalle Olimpiadi alle sfilate, eccetera, che sono appunto testimonianze di un tempo e parte della storia di un paese, che se nascono nell'universo digitale e poi non se ne tiene traccia, sono perdute per sempre. In realtà, più che la scomparsa dei dati, il vero tema critico forse è la persistenza dei dati digitali, cioè una volta pubblicato un video, una foto, un profilo, non c'è modo di cancellarli definitivamente dalla rete volendolo fare. Quindi se da un lato questa permanenza è utile, pensiamo al caso dei curricula, dato che sempre più aziende li visionano online sui siti dedicati come LinkedIn, il social network appunto di referenze professionali, dall'altro, visto che l'accessibilità a tutto ciò che ci riguarda online è totale, altri dati meno qualificanti, video imbarazzanti, dichiarazioni politicamente scorrette, stanno diventando, per stare in questo esempio, causa di licenziamenti. Quindi c'è anche un problema di privacy, evidentemente legato alla grande memoria collettiva digitale che diventa irreversibile, appunto, che sta diventando il web. si sta creando, infine, questo è l'ultimo fenomeno di cui parlo, anche una memoria forzatamente condivisa. Questo è un tema interessante, è quella dei non utenti Facebook, per esempio, cioè chi ha scelto di non esistere con un proprio profilo su questo social network. Ebbene, queste persone sono comunque presenti attraverso le foto taggate, caricate da amici che decidono di pubblicarle dopo averle scattate a una festa, a un evento, in vacanza, a scuola, eccetera. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo negli Stati Uniti su Memoria e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buongiorno. Mi rendo conto che l'intervento di oggi può suonare alquanto macabro, ma in tema di dislocazione della memoria, come non ricordare che anche il caro istinto ha diritto al suo posto nella rete. I memoriali online negli USA non sono una cosa nuova e, considerando l'ossessione quasi al limite della morbosità che gli americani hanno per gli annunci mortuari, i cosiddetti obituary, questo non ci stupisce. E un esempio è il sito virtualmemorials.com, ma da qualche anno a questa parte è nato mydeathspace.com, che è di fatto il social network di chi è dipartito avendo fatto parte in vita di uno dei social network più diffusi, MySpace appunto. L'idea è venuta a un 27enne di San Francisco, tale Mike Patterson, quando si rese conto che i profili degli iscritti al social network rimanevano online anche dopo la morte dei loro proprietari, come se nulla fosse accaduto. E per rendere omaggio a queste persone e tenerne viva la memoria, ha fondato questo sito che funziona senza filtri, nel senso che chiunque venga a conoscenza del decesso di un membro della comunità può segnalarlo e aprire un profilo a cui, previa registrazione, gli utenti possono accedere per lasciare commenti, dei veri e propri epitaffi quasi. Il sito conta 20.000 contatti giornalieri che si intensificano chiaramente in occasione di morti celebri, come è successo con l'attore Heath Ledger, per esempio, ma anche per commemorare storie più quotidiane. Un vero caso è stato quello di una ragazzina russa uccisa mentre lavorava in un McDonald's di Seattle. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione ti ripropongo l'interrogativo iniziale. Andiamo verso la generazione Total Recall? Certamente andiamo verso la digitalizzazione di tutto ciò che è digitalizzabile, quindi andiamo verso la memoria totale. Questo mi fa ripensare alla biblioteca di Alessandria, che avrebbe dovuto contenere tutto lo scibile umano, o alla mappa batesoniana, che poi non corrisponde al territorio descritto, o al libro totale di Borges. Insomma, il Total Recall ripresentifica in un certo senso il mito di un modello capace di rappresentare e contenere traccia ordinata di tutto il mondo. Finisce qui anche questa puntata di Essere e Avere, resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima, come sempre dopo il GR delle 13. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.